Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Il mondo dell'automobilismo non finisce mai di appassionare milioni di persone in tutto il mondo. Le corse ovviamente sono molto cambiate dagli anni in cui la Ferrari e la Lamborghini si facevano i dispetti tra Carpi e Maranello e per costruire la macchina più potente. Oggi è tutto diverso, oggi comanda l'elettronica, probabilmente oggi ai piloti basta schiacciare un tasto sul loro volante così sofisticato, sul quadrante più che sul volante, per risolvere problemi di controllo dell'auto, per correggere errori, per ottenere maggiore potenza. Sicuramente questo ha generato delle gare molto più noiose rispetto a 30-40 anni fa, però c'è da dire che oggi le gare sono molto più sicure. Una volta i piloti rischiavano la vita a ogni gara, a ogni curva, e a volte non solo loro, anche il pubblico rimaneva coinvolto negli incidenti. Bene, noi oggi raccontiamo la storia di un pilota che ha vissuto la sua vita con la speranza, il sogno di arrivare al gradino più alto, quello di campione del mondo della Formula 1, è un traguardo che il destino gli ha negato. Anzi, questo pilota è stato legato a uno degli eventi più tragici della storia del mondo delle corse. Siamo a Horrem, vicino a Colonia, 4 maggio 1928, in un antico maniero c'è una nobile famiglia tedesca che sta festeggiando la nascita del giovane rampollo. La famiglia sono gli Junkers, una ricca famiglia aristocratica di possidenti terrieri. Il bambino, devo leggerlo, viene chiamato Wolfgang Alexander Albert Eduard Maximilian Reichsgraf Berge von Trips. È un barone, cresce in un castello tra gli agi, le ricchezze di una famiglia benestante, è educato alle buone maniere, ai principi teutonici della cavalleria. È un giovane che può praticare tutti gli sport che vuole, può avere a disposizione qualsiasi cosa. Anche quando la Germania nazista perde la seconda guerra mondiale, lui che ha 20 anni si trova, è vero, in un paese da ricostruire, però in una famiglia che non soffre della crisi profonda del paese. Proprio nei casi disperati, se mancavano dei soldi bastava vendere una parte delle terre di famiglia e andare avanti ancora per decenni, come molti suoi coetanei dell'epoca, però quelli di famiglia buona, ricca. Lui si appassiona alle corse motociclistiche e i soldi, lo abbiamo detto, non sono un problema. A un certo punto lui decide di passare dalle due alle quattro ruote, si compra un'auto da corsa, comincia a cimentarsi nelle prime gare. Era un uomo davvero speciale ed è rimasto nel cuore di molte persone. Da ragazzo era un gran ritardatario, sempre in ritardo, e a scuola non era certo uno studente modello. Si diplomò, ma aveva grandi carenze con le lingue, anche se quando iniziò a correre in soli 3 anni imparò l'inglese, il francese e l'italiano. E questi sono i ricordi di Reinhold Lewis, presidente della fondazione von Trips, amico del barone tedesco, il nostro protagonista, che nel 54 partecipa per la prima volta alla famosa 1000 miglia al volante di una Porsche 356, arriva 33esimo. Il ragazzo dimostra della stoffa è Alfred Neubauer, il direttore sportivo della Mercedes, offre a von Trips una delle frecce d'argento, come si chiamavano allora le Mercedes. È un periodo delicato nel mondo del corse, perché nel 55 a Le Mans aveva avuto luogo la tragedia più grande mai avvenuta in una gara automobilistica. Corsa del mondo su circuito, sono venuti a Le Mans 250.000 spettatori. Il fondo magnifico e l'abbondanza dei rettilinei consentono di sfiorare i 300 all'ora. Il destino di un pilota o di uno spettatore a questa velocità cammina sul filo di un rasoio. Un attimo di indecisione provoca la tragedia. La Mercedes di Pierre Levesque, del peso di oltre 1000 kg, lanciata a tutta velocità, è uscita di pista e nel tremendo cozzo è esplosa quasi disintegrandosi. Il motore, la sale anteriore, lamiere infuocate sono saltati via, aprendo un solco sanguinoso nella folla. Hanno seminato la morte. A parte l'enfasi così strana che usa il telecronista per raccontare una tragedia terribile, un'auto che decolla impazzita e che uccide 82 spettatori più il pilota che si chiamava Pierre Leveg. 82 spettatori. Ovviamente è un trauma per il mondo delle corse, molte gare vengono cancellate, la Svizzera vieta per legge le gare automobilistiche, poi come accade nella vita, piano piano la tragedia comincia, come dire, a scendere di interesse e a un certo punto si riaccendono i motori delle auto. È una legge non solo dell'automobilismo, ma proprio della vita. Però le tragedie nelle corse delle macchine servono a migliorare le cose, a aumentare la sicurezza, ma non è ancora il momento che questo accada. Intanto siamo nel 55, Von Trips corre la Touris Trophy, arriva terzo dietro a Stirling Moss e Manuel Fangio. La Mercedes si ritira quell'anno in seguito agli eventi di Le Mans, però ci sono altri occhi che si puntano su Von Trips, che è forte, comincia a piacere a tutti, anche al Drake, a Enzo Ferrari, che nel 56 fa debuttare il tedesco in Formula 1 e gli affida una macchina che lui distrugge durante le prove, fratturandosi un braccio e guadagnandosi il soprannome di Barone von Crash. Insomma, lui deve anche combattere contro un mondo che è legittimamente prevenuto nei suoi confronti, perché lui è il ricco aristocratico viziato che si diverte a fare il pilota, non ha la rabbia di quelli che vogliono emergere a tutti i costi. Poi negli anni 50 c'è un'immagine della Germania molto particolare, devastata dall'insuccesso della guerra e anche da tutti i motivi che la guerra l'hanno provocata. Insomma, la Germania ha bisogno di una operazione restyling, di un'operazione simpatia, e Von Trips non è una persona qualunque, non si lascia demoralizzare dalle prime critiche, ma non è certo, come dire, il tedesco ideale per ricostruire un'immagine di una nuova Germania. Il falco e il gabbiano. Nel 57 Von Trips è ancora alla guida di una Ferrari e comincia a ottenere i primi piazzamenti, sesto in Argentina, terzo a Monza. Lui ha questo soprannome che si è guadagnato, Taffi. Non è solo un pilota di Formula 1, perché in quegli anni si partecipa a varie competizioni, per esempio c'è la 1000 miglia, lui partecipa sempre alla guida di una Ferrari 335S. La 1000 miglia si corre tra le strade statali con la gente che si piazza ai bordi della strada come quando passa il Giro d'Italia, solo che qua passano macchine a 200 all'ora e non c'è la minima cura, la minima sicurezza. Alla gara partecipa anche Piero Taruffi, che è un decano della gara, e Von Trips in quel momento è secondo dietro a Taruffi, e la macchina di Von Trips è in condizioni migliori e si sta avvicinando tappa dopo tappa all'italiano. A questo punto arriva un colpo d'ala di Von Trips, perché Enzo Ferrari gli fa avere un messaggio, chiede un gesto nobile da parte del tedesco, sa che è giovane, che ha tanto tempo per vincere, a differenza di Taruffi che invece è avanti con gli anni, e Ferrari gli chiede di non superare l'italiano, di guardargli le spalle dagli altri avversari accompagnandolo fino al traguardo. Von Trips è un uomo nobile, è leale, le sue origini nobiliari, come dire, lo portano a gesti di questo genere, quindi obbedisce. Però sulle 1000 miglia lui non avrà altre occasioni, perché il destino è in agguato ancora una volta, c'è un nuovo incidente che coinvolge il marchese spagnolo Alfonso de Portago. Alfonso de Portago, il 531 è sicuro al volante e si lancia verso la pianura del Lazio a tutto gas, ma nell'aria è già la tragedia. De Portago, tuffatosi in pianura, viaggia a 280 all'ora. Sul rettilineo di Guidizzolo, nel Mantovano, gli scoppia una gomma, travolge un paracarro, investe spettatori, rimbalza dall'altra parte della strada, spacca un palo telegrafico, si schianta in un fosso. Oltre a quelle del pilota e del compagno di corsa Eddie Nelson, altre 9 vite, tra cui 5 bimbi, restano stroncate dal bolide impazzito. L'auto è impazzita, muore il pilota, muore il suo secondo e muoiono 9 persone, tra cui 5 bambini. E in effetti la 1000 miglia stava diventando anacronistica. Voi pensate a delle macchine che partono in mezzo alle altre macchine, in mezzo alla strada, per andare da una città all'altra, e intanto l'Italia e il mondo sta cambiando. Insomma, da quel momento si corre solo sui circuiti dove almeno c'è più sicurezza. Questo almeno è quello che si pensa. De Portago peraltro non è l'unico pilota che muore in corsa in quegli anni. Muoiono Collins, Castellotti, Musso, Hawthorn. Il rischio in quegli anni è altissimo, non ci sono i roll bar di sicurezza, non ci sono dispositivi elettronici, le gomme esplodono più facilmente. Insomma, ogni anno c'è almeno un pilota da piangere. È una generazione particolare, veramente una generazione di eroi, di superuomini, di gladiatori che non sanno se finiranno vivi la gara che hanno appena cominciato a correre. Intanto Wolfgang von Trips lascia Maranello per la Porsche. Sono anni difficili, non arrivano i risultati e lui torna alla Ferrari. L'accoglienza questa volta è fredda, perché lui se n'è andato per correre con la concorrenza e non ha ottenuto risultati, quindi in qualche modo non è un campione irrinunciabile a cui perdonare tutto. Bisogna ricominciare dal basso, bisogna guadagnarsi di nuovo la fiducia di Enzo Ferrari del Drake. Tra l'altro von Trips non è un meccanico, non conosce le auto, non sa portare modifiche, non dà consigli come fanno i suoi colleghi, quelli che sono arrivati diciamo più dal basso. E intanto Ferrari peraltro ha aperto ai piloti americani. Nel 60 arriva Phil Hill, von Trips deve combattere per riconquistare la fiducia di Ferrari. Intanto lo fanno correre in Formula 2. Nel 60 si corre il Gran Premio di Germania nel circuito di casa della Porsche. La Porsche schiera 5 auto, la Ferrari solo 2, una guidata da von Trips e l'altra appunto da Phil Hill. Nessuno si aspetta grossi risultati. Von Trips vuole cogliere l'occasione della sua vita perché vuole meritarsi il posto in Ferrari. Compie il miracolo e vince, e lui sul podio non viene applaudito da nessuno perché i tedeschi lo considerano un traditore. Ma ha conquistato Enzo Ferrari, perché a questo punto lui capisce di avere un giovane leone pieno di ambizione, di fame, di vittoria, quello che ci vuole per la sua Ferrari nel campionato di Formula 1 del 61. E intanto è nata anche una leale amicizia con Phil Hill. Trips was a tremendously enthusiastic guy. Von Trips era un ragazzo con un entusiasmo dirompente e siamo diventati grandi amici. Ho conosciuto i suoi genitori a Durham, vicino a Colonia. Era un ottimo compagno di squadra e lo ha dimostrato in diverse occasioni. Il 61 è l'anno migliore della carriera di Wolfgang von Trips. Vince la prestigiosissima Targa Florio, che si correva per strada in Sicilia, e conquista la sua prima vittoria in Formula 1 a Zandvoort in Olanda. Poi in Belgio è secondo alle spalle di Hill, poi va a vincere in Gran Bretagna, poi arriva secondo in Germania. Insomma, è veramente in grande forma e la macchina lo asseconda per la gioia di Ferrari, che vede i suoi due campioni che si stanno contendendo il primato nella classifica mondiale. 33 punti von Trips, 29 Phil Hill, a due gare dalla conclusione, Monza e Watkins Glen negli Stati Uniti. In pratica, se a Monza von Trips vince, mette una seria ipoteca sul mondiale. A questo punto però entrano in gioco anche altri fattori, la politica, l'economia. La Ferrari sta aprendo agli Stati Uniti per i suoi rapporti commerciali, e insomma la vittoria di un pilota americano a bordo di una Ferrari sarebbe un grande valore aggiunto. Von Trips è un uomo leale, lo ha dimostrato in altre occasioni, e Ferrari lo sa e sa su quali punti poter fare leva per ottenere ciò di cui ha bisogno. Però non sa che quello che sta per dire a von Trips innescherà una serie di eventi che avranno risvolti veramente tragici sulla vita di molte persone. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Wolfgang von Trips, il barone von Trips, il giovane figlio dell'aristocrazia tedesca che nel 61 è alla guida di una Ferrari di Formula 1 ed è a un passo dalla vittoria del campionato del mondo. E questo è un evento fondamentale per lui, lui che è abituato a correre in diverse categorie, che in quel 61 sta raccogliendo finalmente i frutti di anni di gavetta. Però è un evento importante anche per la Germania, che sta lentamente ricostruendo la sua economia dopo la tragedia e la disfatta della Seconda Guerra Mondiale, sta cercando eroi positivi per risollevare anche l'immagine del paese. Von Trips non è molto amato in Germania perché corre su una Ferrari, però negli ultimi mesi quantomeno la bandiera tedesca ha sventolato più in alto di tutte e due volte. A Von Trips manca solo una vittoria per laurearsi primo pilota tedesco a vincere un campionato mondiale. Lui, lo abbiamo detto, non corre certo per i soldi, non ne ha bisogno, lui ha discendenze aristocratiche, è molto ricco, lui corre per ambizione personale, però è stato educato secondo lo stile cavalleresco che si addice a un nobile come lui. Era già successo durante la mille miglia del 57 e ancora una volta Ferrari gli chiede un favore, gli chiede di farsi da parte come già fece appunto alla mille miglia. Lo ricorda Reinhold Lewis, presidente della fondazione Von Trips. Pochi giorni prima della gara, Von Trips ebbe una chiacchierata con il direttore sportivo della Ferrari, Romolo Tavoni, che parlava per conto del Drake Enzo Ferrari. «Barone, avrei piacere che lei considerasse la possibilità di favorire Phil Hill nella corsa al Mondiale. Lei avrà altre occasioni». Parole gravi, peraltro parole che abbiamo già sentito anche in anni più recenti, quando la rivalità tra Villeneuve e Pironi sfociò nel tragico incidente nel quale morì Gilles Villeneuve. Sono parole molto difficili da accettare da una persona normale. Enzo Ferrari era uno molto sbrigativo, che chiedeva tutto ai suoi piloti, ai suoi collaboratori, passava sopra a tutto. Però Von Trips è un aristocratico, sa qual è il momento nel quale cedere il passo. Il suo è un colpo d'ala che vale più di mille vittorie, perché è una vittoria con se stesso. Von Trips accetta, promette di guardare ancora una volta le spalle al compagno di squadra. Intanto Von Trips è in pole position, accanto a lui Riccardo Rodriguez, in seconda fila Phil Hill e un altro americano, si chiama Richie Ginter, tutti su Ferrari. In quarta fila c'è un altro mito, Jim Clark, sulla sua Lotus. Monza rimane da sempre un circuito affascinante, il pubblico lo sapete, insomma affolla quei luoghi con grandissimo amore, e la gente si dispone lungo il percorso delle collinette che ci sono a bordo pista, anche vicino alla parabolica, in uno dei punti dove le auto rallentano prima della parabolica. Poi il circuito di Monza adesso è stato modificato, sono state inserite delle chicane per limitare la velocità, allora si andava al massimo. E tra le persone che stanno vedendo il Gran Premio c'è anche un signore che si chiama Paolo Sciacca, è seduto sul parafango della sua 600 dietro alle reti di protezione, ha una telecamera e sta riprendendo le immagini della gara. Le macchine arrivano veloci, siamo al secondo giro, c'è una sequenza che dura poco più di 3 secondi, poi il filmato si interrompe, qualcosa di tragico sta accadendo. Quel 10 settembre 1961. Von Trips alla partenza ha eseguito gli ordini di scuderia, ha lasciato passare Phil Hill, adesso è in mezzo alla bagarre delle auto inseguitrici, c'è la staccata della parabolica, poi bisogna allargarsi, inserirsi in traiettoria. Von Trips si allarga, frena e a fianco alla Lotus di Jim Clark. Sono momenti concitati perché tutto sta avvenendo a velocità attorno ai 200 all'ora. E tutto accade in poche frazioni di secondo. Le ruote si urtano, si agganciano e, come spesso accade, una delle due auto decolla. È la Ferrari di Von Trips. Sale sul terrapieno laterale, inizia a capottarsi. Il filmato di Paolo Sciacca in quei 3 fatali secondi inquadra Von Trips che cerca di uscire dall'auto prima dell'impatto contro la rete di protezione. Lui però è alto 1,90 m, rimarrà incastrato. Le ruote della Ferrari, che è lanciata a 200 all'ora, scorrono lungo la rete mentre la testa di Von Trips sta strisciando sul prato con l'auto semicapovolta. Tra il pubblico appoggiato alla rete è una strage. La prima a essere colpita è una donna che viene decapitata dalla ruota. Poi gli altri spettatori vengono colpiti dalle gomme che fanno rimbalzare la Ferrari di Von Trapp. Muoiono 15 spettatori e muore anche lui, Wolfgang Von Trapp, con una frattura al collo. Paolo Sciacca con la sua telecamera registra gli ultimi fotogrammi prima dell'incidente, poi viene colpito e buttato all'indietro. Rimane gravemente ferito, ma sopravviverà. Wolfgang Von Trapp e 15 spettatori sono morti durante la disputa del 32esimo Gran Premio d'Italia. Fra pochi minuti la pista sarà insanguinata. Di chi la colpa? Non sta a noi rispondere. Noi possiamo solo raccoglierci in silenzio e ricordare i caduti. Non solo i caduti in questa competizione, ma tutti i caduti per la causa dell'automobilismo, per il progresso. È un po' grottesco, insomma, il tono con cui l'Istituto Luce commenta momenti così tragici. Siamo lontani anni luce anche proprio nel modo di esprimere la comunicazione. La corsa non si ferma e i commissari di pista e le ambulanze stanno soccorrendo i feriti, stanno raccogliendo i corpi straziati dei morti. La corsa non si ferma. Phil Hill taglia il traguardo da vincitore. Nessuno gli dice che il suo compagno di squadra è morto e che sono morte 15 persone che erano andate a Monza per divertirsi. E l'inchiesta successiva dimostrerà che non c'è stata nessuna colpa né da parte di Von Trapp né da parte di Clark. Le due auto si sono trovate una a fianco all'altra, si sono agganciate per un caso fortuito. L'incidente era avvenuto in un punto del circuito che era considerato a basso rischio perché le auto stanno rallentando. Insomma, l'incidente è frutto di una serie tragica e sfortunata di eventi. Non c'è nessun diretto responsabile, anche se evidentemente, come dire, le norme di sicurezza erano palesemente inadeguati. Uno dei possedimenti della famiglia Von Trapp è il castello di Emmersmark vicino a Kerpen. In uno dei suoi viaggi negli Stati Uniti lui era tornato portando un go-kart a motore e aveva costruito una pista di go-kart proprio sul terreno del castello. È la prima pista go-kart d'Europa. Così i genitori trasformano quella pista in un moderno kartodromo dove i bambini di tutta la Germania potessero iniziare a approcciarsi al mondo delle corse. Quindi è un modo per celebrare la perdita tragica di un figlio. Bene, tra questi bambini che si sono fatti le ossa, se così si può dire, nell'autodromo di Kerpen c'era anche Michael Schumacher, che proprio da lì inizierà la sua incredibile carriera che lo farà diventare il primo campione del mondo di Formula 1 di nazionalità tedesca. Quindi paradossalmente grazie al sacrificio di Von Trapp anche in questo caso. E tra le tante fotografie che ritraggono Wolfgang Von Trapp nel museo di Kerpen ce n'è una che ritrae il giovane pilota che corre a bordo di una Volkswagen numero 53. Nel 68 la Walt Disney produce il film Herbie, la storia del maggiolino numero 53. Molti dicono che questo numero è stato messo proprio in onore delle grandi imprese del barone che rinunciò alla vittoria per onore e che per questo perse la vita. Eh sì, a Wolfgang Von Trapp era stato detto di lasciar passare Phil Hill, gli era stato detto che avrebbe avuto un'altra occasione per dimostrare il suo valore. Beh, lui questa grande occasione non l'ha avuta, però ha vissuto una vita piena di colpi d'ala proprio per questa educazione aristocratica che l'aveva sempre portato a farsi da parte per favorire gli altri, che l'aveva portato a dare più importanza all'onore che al risultato. E questo è un mondo che è scomparso. E peraltro la grande vittoria di Von Trapp è stata quella di aver restituito una parte di dignità al popolo tedesco dopo gli orrori della guerra. Purtroppo per diventare per i tedeschi un eroe positivo ha dovuto morire. E noi vi aspettiamo con altre storie e vi chiediamo di segnalare via mail al falco@radio24.it se anche voi conoscete una storia che merita di essere raccontata. Oppure seguitemi, interagite con me sul sito di Radio 24, sui miei, sui nostri social, Facebook, Instagram, Twitter, insomma, se volete lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano.